Barisone e è diventato vicepresidente, no? Crucia, è inutile che lei fa il saputello, lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'è a fianco. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Facciamo una trasmissione! Una trasmissione da urlo! Ciao Crugiani, mi senti Crugiani? Volevo dare una critica a Parenzo per fare il vaccino obbligatorio. Che... Questo è un altro fenomeno. Un fenomeno. Il vaccino obbligatorio io lo critico perché troppo esagerato. Il vaccino non è obbligatorio. Sì. Lei è talmente lucido che su come... lei il vaccino non ha effetto. Dico questo, gente così non va vaccinata, a cosa serve? A cosa serve un signore così? Ma ditemi voi, a cosa serve? A cosa e serve? Tu sei convinto, l'italiano così formito, lei l'ha imparato a Rete 4, ne sono sicuro. Grazie, grazie. Prego, prego. Grazie, al cazzo, grazie al cazzo. Grazie, grazie. Perché ho visto che lui proprio incassa questo vaccino obbligatorio sulla testa e a leccare la sinistra che va a favore lui. Ma lei è completamente ubriaco. Ha bevuto cosa? No, bevuto è lucido. Stasera? Io non mi riconosco in quell'intervista. Non so che cosa sia successo. Sto cercando di capire. Cosa volevo dire? Aspetta un attimo, mi dai la birra per favore? Scusa, birra, a sta ora qua. Ma vai a casa a riposarti. Ma stacci te a casa, stacci te 12 ore a casa con la mascherina in casa. Ma tu ti rendi conto che questo lavora in ospedale, dovrebbe salvare le vite e ascolta la zanzara e beve birra. Io mi preoccupo. Parenzo, io ti amo, no, guarda. Io no, grazie. Io no. Guarda, se fossi gay ti inculerei subito, guarda. Lei è un personaggio, piace. Lei è un personaggio pericoloso. Parla di figa, per favore, a noi non frega in casa di niente. In collegamento da Roma, David Parenzo, applausi, sono rimasto io qua da solo in sede a presidiare il fortino, mentre voi siete lì a spassarvela a spese di questo gentile imprenditore, albergatore che vi ospita, che vi fa mangiare gratis, che vi fa mangiare gratis, certo. Vi siete rivenduti, un piano riservato, tante rompete i coglioni che vi hanno riservato un ala. Certo. Notte non ti lascia dormire un rompipalle di prima perché categoria. Cosa fa di notte? Bussa la porta, lui bussa. Poi racconto tutto. Bussa, in collegamento da qui vicino, 3 metri con la porta chiusa sul suo lettone, Alberto Gattardo, applausi. Sempre più mobilmente adagiato nel mio lettone. Allora ragazzi, mi dispiace per il secondo giorno dopo la vicenda di Catanzaro avere ragione perché io non voglio mai avere ragione sul caso del bambino con cui tu te la sei presa con la signora azzurra Noemi Barbuto, il bambino morto nel Mediterraneo, la signora azzurra Noemi Barbuto. Poi ci parlerai della cinica, nutria e della Barbuto. Poi ci parlerai di questa storia qua. Sente un cazzo, mi dicono. Rimbomba, dice l'avvocato Trucco. L'avvocato Trucco appena ha scritto. Ma l'avvocato Trucco andasse a fare in culo. Diglielo, mi ha scritto. Va bene, dai. Non me ne frega un cazzo. Per il secondo giorno mi dispiace avere ragione. In Grecia, il padre di un bambino di 6 anni morto su un barcone, ancora, cioè naufragato da un barcone, è stato condannato Grecia, da un tribunale greco e arrestato per avere fatto morire il figlio, per avere messo in pericolo di vita il figlio. Chiaro? Barcone affondato, bambino afghano di 6 mesi, padre 25enne, andava dalla Turchia alla Grecia, è stato arrestato. Arrestato, chiaro? È stato arrestato. Prendi questa qua, Parenzo. Beh, dalla e Turchia porta alla a Grecia, casa. Ma non vuol dire niente. Non dimostra nulla. Non dimostra nulla. La pietas umana nei confronti di una donna che ha perso il figlio e che voleva salvare il proprio figlio, voleva per il proprio figlio una vita diversa. E voi, cinici, tu e la Barbuto. Barbuto si chiama Barbuto, no? Perché poi si offende, sì, se dice mi hai invece chiamato Barbuto. Si chiama ah no, Barbuta l'ho chiamata una volta e ho sbagliato. Barbuto, tu e la Barbuto, tu e Madame Barbuto, tu e Madame Barbuto. Due cinici, due cinici. Ma poi a uno che è morto il bambino di sei mesi, cazzo gliene frega dell'arresto? Cioè, sì, tra l'altro, bravo, esatto. Sei già esatto. In carcere dentro di te, hai già il tuo cuore che è morto, che ha l'ergastolo. Che cazzo te ne frega? Ragazzi, ha ragione lei, punto. Ma una madre che porta un bambino di sei mesi su un barcone e lo fa un barcone con tutti i pericoli del caso, è in parte ma responsabile della morte ma del figlio. Ma voleva una vita punto migliore basta, per dai, il figlio, ragazzi, ha messo a rischio la sua. Ma vai a dire, vaiala a dire ai greci, ai tribunali greci che hanno arrestato i giudici greci, ma vada la quel paese, non è mica, i tribunali greci, dittatura la Grecia, no. Ma no, vada da quel paese, i tribunali greci, che se ne frega i tribunali. Allora greci. Ragazzi, altra cosa, molti si commuovono per carità, 731 morti di oggi, no? Però molti ho visto sui social, oddio, mettono questo numero 731 persone che non 753, possono più vedere i loro parenti, 753 753 gli amici 753. E i parenti che non potranno più vederli e mettono questo numero 753. Ma quante cazzo di persone muoiono ogni giorno? Perché non fanno questo ragionamento quando muoiono ogni giorno migliaia e migliaia di persone? Ma che vuol dire? Questo magari erano morti evitabili. Ma che vuol dire? 750. Chi ha detto che erano evitabili? Magari scusa, erano evitabili, non lo so. Magari, ma che erano evitabili? Che dici? Ma perché se erano ci fosse evitabili? Stato magari un vaccino, una terapia più forte. Come rispetto a cosa? Rispetto ma a una tragedia. Ma questa retorica sui morti ogni giorno 750. Ma non è una retorica, è un dato purtroppo. Non c'è una retorica. Cosa insopportabile. Non c'è nessuna retorica, purtroppo. I per tua fortuna non hai sempre avuto nessuno. Ma quello che vuol dire? È la vita, nasci e muori, ma quello è evidente. Dai, ma non su, è che nasci dai. E muori per il Covid, c'è scritto che devi morire per il Covid, però scusami, Per la penicillina una volta si moriva anche di morbillo, si moriva di una vena di sgarbi, ho bisogno di un'endovena di sgarbone, datemi uno sgarbi. Dio non ha creato le mascherine, portarla all'aperto è fuori legge. Sgarbi insiste molto su questo, vai. Dio non ha creato le mascherine. Io posso metterla se è necessario, non la devo mettere se cammino per strada. Chi mi multa fa un abuso. Sì. Quindi, da ogni punto di vista, dobbiamo riportare la legge. Siamo fuori legge. Ma non la legge noi. La deve noi. Riconoscere un tribunale. Un fuori legge. Non la puoi, uno non può dire io non la rispetto. È una vecchia nostra pronunci. Discussione. Era dal signor Giordano, come avete sentito, dal signor Giordano. La legge è sacra, la gente deve lavorare e sono da mettere in galera, perché dice che la gente deve lavorare. Dunque non rompete i coglioni, la gente deve lavorare, anche da questo punto di vista la legge dovrebbe essere sacra, non solo quella sulle regole e sulle mascherine. Vai Sgarbone, vai. Altrimenti vale tutto, cioè io non posso dire secondo me no, è appunto, così. Ma tu l'hai detto. No, la legge è sacra, sì. L'articolo 1 sì. È legge, sì. È la Costituzione, l'articolo 1, questa gente deve lavorare, se glielo impedisce sono dei persecutori, vanno messi in galera. Comunque ragazzi, è un eroe, è l'unico che resiste su questo fronte. Anch'io mi sono accodato a questo fronte della grande resistenza libertaria, che devo dire è stato incarnato a lungo dal signor Gottardo qui presente, questo sì, bisogna ammetterlo. Certo, è stato a lungo incarnato dal signor Gottardo qui presente. Già a febbraio avevo intuito come andava a sì, finire questa storia. Morti di Bergamo, mentre c'erano i morti di Bergamo. Mi annoia avere ragione, anch'io sono crucianiano in questo, come Cruciani ha ragione su Catanzaro. Ma non avete ragione, questo è il dramma. Ecco, non avete ragione, l'Austria è il down. La Germania sta chiudendo. Allora? La Germania, allora? L'Austria, quindi non è solo il governo italiano. Non è solo il governo italiano, tutto il mondo si sta ponendo il problema di come fermare la ripresa della curva. Anche tutto il mondo. Negli anni 30 del secolo scorso succedevano delle cose partite dall'Italia, cosa poi in Germania, poi in Austria, poi nel territorio dei Sudeti. E cioè, tu stai dicendo che c'è una grande dittatura, cioè la grande dittatura del lockdown. Quello che vive. Quello che vive come l'emiro del Bahrain, quello che vive come quello straccione, lo straccione che vive come l'emiro del Bahrain, straccione che vive come un russo, come un russo, come l'emiro del Bahrain, e l'altro invece miliardario che veste come uno straccione. Ma per carità di Dio, avete distrutto la piscina dell'albergo Plaza, non so come cazzo si chiama, la diavano, perché la dovranno disinfettare dopo che andate via, disinfettare, non ci saranno più clienti. Zitto un attimo, anche durante la guerra si faceva il Natale, zitto un attimo. Perché se io proibisco a qualcuno di camminare dalle 10 alle 11 dove non c'è nessuno, in tutte le città italiane che sono dei mortori, non limito nulla, sono misure tutte di tentativo. Tu... Perfino durante la guerra ci fu la tregua di Natale, cioè si faceva il Natale nonostante la guerra. Allora, la questione dei vaccini, c'è una corsa incredibile da parte di queste aziende a dire: io ho fatto il vaccino che è efficace al 94%, è sicuro, non ha controindicazioni, e poi quell'altra dichiara il 95%, ma non vi accorgete dell'enorme farsa di questa storia qua, della comunicazione, magari il vaccino sarà efficace, questo non lo, l'enorme farsa di questa roba qua. Ma devono portare ogni i dati, devono essere certificati. Qualcosa in più. E devono ogni essere giorno dichiarano qualcosa in più. Vabbè, è una sarà guerra commerciale per qualche anche. Speculazione? Ma sarà forse anche. Per qualche speculazione? Sicuro anche, ma come in tutte le guerre. Sicuro, ma l'Europa ha già comprato a prezzo calmierato il vaccino. Sì, ho capito, ma l'Europa ha già preso il vaccino a prezzo calmierato. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Ma secondo come no? Te è importante. Ma sono sempre milioni e milioni, questi vogliono saltare in groppa, certo. Più grande affare del secolo. Ma questo per, ma chi c'è? Sei contro la ricerca scientifica, contro il fatto che chi guadagna. Adesso sei anche contro la ricerca scientifica e contro le multinazionali. Sei improvvisamente diventato no global pure. Il 35% degli italiani che secondo i sondaggi non si vogliono vaccinare sono tutti per dei colpa coglioni. Di una disinformazione come questa qua che fai tu, certo. Per colpa di una disinformazione. Il 35% che non vogliono il vaccino obbligatorio. Sì, per una disinformazione. Sono tutti dei coglioni. Tutti dal primo all'ultimo per una disinformazione come la fai tu. Io non voglio il vaccino obbligatorio per sul COVID. Per una disinformazione come la fai tu. Sono un coglione. Assolutamente sì. Perché quello sul vaiolo fu reso obbligatorio. E infatti fu debellato il vaiolo. E lo Stato lo rese obbligatorio. Quello sul vaiolo contro il COVID. E allora non sei mi un coglione. Sei un coglione. Non mi vaccinerò. E poi lo farai, perché tanto poi chiamerai il tuo amico medico personale che verrà con una siringa d'oro a fartelo a casa. Mentre il povero Cristo, si dovrà mettere in fila, perché tu quando hai bisogno hai il telefono per chiamare il tuo medico. Fermi. I miei buongiorno, pupo che dà lo stipendio alla moglie. Siamo tornati alla zanzara che ci piace. Siamo al top. La zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Questo che hai bisogno che te lo vai a fare tu un viaggetto su un comune, tu già, e ti sei un paio di giorni in acqua così almeno ti lavi un po', visto che fai schifo, sei un pezzo di merda, tu già. Se sei un italiano, bianco, ricco, evidentemente vuoi scendere in piazza, violare qualsiasi norma per protestare perché stai per morire di fame, quantomeno nella tua testa. Se invece sei una donna, nera, povera, proveniente da uno stato africano, devi rimanere nel tuo paese e morire sotto bombardamenti, a causa di una dittatura, per la fame. Va bene così, Cruciani, non è razzismo, sicuramente, guarda, ma almeno il coraggio di rivendicarle le tue opinioni. Ma hai fatto il coraggio di rivendicarlo? Assolutamente, ma non è questo quello è che grande. Dici tu, è assolutamente il contrario questo di quello che grande. Dici tu. Ognuno ha il diritto di scappare. Ognuno ha il diritto di scappare dalla disperazione, dall'economia che non va bene, dalle crisi climatiche, dalla guerra. Da tutto. E però ogni Stato può decidere autonomamente chi accogliere e chi non accogliere. Si tratta tu puoi scappare di soccorrerli e poi responsabilità mandarli, quando scappi. Poi e ti assumi le responsabilità. E ogni Stato decide le proprie cazzo di regole su chi far entrare o no. Non che non esistono regole. Guarda, e prendiamo una storia bellissima tutti oggi, chi cazzo viene. Nella costiera amalfitana di un gruppo di ragazzi, di un gruppo di immigrati che sono sbarcati in questo paesino della costiera amalfitana. Male, e male. E tutto il paese, illegalmente, sì, male, sì, male. E tutto male. Il paese si è mobilitato per loro, tutto il paese. La fornaia ha riaperto il forno, l'agroalimentare gli ha dato da mangiare. E va bene, il paese intero, allora, questa è l'Italia. Allora? Questo è il cuore d'Italia. Erano, sì, clandestini, erano clandestini, erano clandestini, poi sono stati curati e ora verranno magari individuati. Magari c'era qualche attentatore che dopo intanto di passaggio va a Parigi. Vai a vedere cosa ha fatto questo paesino della costiera amalfitana. Dopo aver preso il pane, dopo aver preso il pane, guarda, sulla costiera amalfitana, ha preso due rossette, guarda, due filoncini di caso, pane sulla costiera amalfitana. Un caso, poi si accompagna a Parigi. Poi magari si accompagna a Parigi, vergognati. Un caso solo da vent'anni. Vergognati. Guarda cosa ha fatto questo paesino, questo intero paese. Dammi porro, che tu non racconterai, che non racconterà Rete 4 ovviamente la storia di questo paese. Oggi la notizia di loro non lo racconteranno, no, non lo racconteranno, ovvio, perché è una storia scomoda di un intero paese. Datemi che si mobilita sui e accoglie. Porro sui vaccini, ma chi se ne frega, ognuno si mobilita per quello che vuole, mica ho detto che non fanno bene. No, ognuno un intero paese, un intero ognuno paese. Ma non dovevano arrivare! Punto. Ma loro non hanno detto questo, intanto loro intanto ne hanno soccorsi. Chi se ne poi frega, dopo poi diranno che fanno, le vostre che, cazzate. Quelli che li assistono fanno bene. Fanno bene se lo fanno in maniera spontanea, come sicuramente lo faranno, vai. Porro. Fantastica l'Italia che non vuole i vaccini, perché secondo quello che scrive Filippo Facci, riprendendo i sondaggi televisivi dei giorni scorsi, un italiano, 35% degli italiani non vuole vaccinarsi e il 15% è indeciso sul da farsi. Vedete, io questa la chiamo selezione naturale, no, adesso sto esagerando, però selezione naturale. Non vi volete vaccinare, non vi vaccinate, morite. Io c'ho tanti di voi che penso che siano, che sono Novax, va bene? Volete essere? Io sono contro il vaccino obbligatorio, ve lo dico subito, perché il vaccino obbligatorio in questo caso non me ne frega niente. Non vi volete vaccinare, non vi vaccinate. Uno dice fai come la Svizzera, quella proposta shock che non gli paghi la sanità. No, la sanità la pago anche a quelli che non si vogliono vaccinare. Andate fatevi la malattia se voi pensate, però ragazzi non ci rompete più le balle, ecco. Volete, non volete vaccinarvi, non volete vaccinarvi per l'influenza, non volete vaccinarvi per il Covid, non volete vaccinarvi per la varicella, non lo fate, nessuno vi obbliga a farlo, così come nessuno vi obbliga a prendere gli antibiotici, secondo me in un mondo liberale, non piagnucolate sul fatto che poi state col tubetto dentro, dentro i polmoni. Andiamo, Claudio da Roma, vai Claudio. Guarda, dimmi, guarda Claudio, la storia di Massa Lubrense. Sì, vai a vedere, non me ne frega un cazzo. Dove voglio sentire Claudio da Roma? Non vai a vedere quella storia di Massa Lubrense invece. Giù. Claudio, dimmi. Sì, buonasera, volevo mandare a fanculo tutti e tre per finire la serata. Sono stanco, torno a casa. E grazie, mi tirate molto sul morale. Tu lavati di più, quell'altro dimagrisca veramente. Erceccio con l'occhiaia e metta qualcosa sotto e andate tutti e tre a fanculo, dai via. Ma non ho capito, tu sei soddisfatto? C'è la giornata, sì, e ti sorride, guarda, un po' di più se ci mandi a fare in culo? Sì, guarda, almeno fate un servizio al pubblico, dai. Cioè di sfogo, diciamo, lo sfogatoio. Bravo, tu ti ci mandi sfogo, a fare in culo e ti sei un po' sfogato. Sfogiamoci, sia Pino da Frosinone, Pino da Frosinone, vai, Pino da Frosinone. Luciani, buonasera Parenzo, buonasera dimmi, a tutti. Dimmi Pino, dimmi. Allora, una piccola questione. Stamattina stavo in autostrada, guidavo una famigliola di 8 cinghiali, sì. Dico 8 cinghiali per i buonisti, sopra la carreggiata. Allora che facciamo? Li adottiamo o facciamo una crociata contro questi cinghiali? In autostrada. Urca. Sulla corsia ho mandato anche. Guarda, quelli pericolosi, fotografia. Quelli vaganti, adesso utilizzando un termine da zombie, quelli vaganti vanno uccisi, cioè vanno presi e uccisi. Si deve fare una crociata contro questi animali. Vabbè, Pino, la domenica. Sì, mi volevo riallacciare una cosa al discorso di ieri sera: trans, culi, gay, tutte queste cose qua. Io non sono per niente d'accordo che i trans siano dei miei pari, perché io sono un etero. Allora a loro gli facciamo pari, le leggi. Sicuro che sono pari, certo. Che vuol dire che sono diversi, loro... non ho capito, che sono inferiori, non ho capito. Allora, sono inferiori perché per loro si fanno le leggi. Allora se io ti chiamo gay, cosa vuol dire io vado a finire in galera. Se tu mi chiami la tarò di merda, a me non succede niente. Quando ma un trans Pino, farà, certo. Pino, tu mi sa che come tu mi sa che sei un camionista leggermente mussoliniano, sbaglio? Adoro sua eccellenza dalla tenera età. Adora sua eccellenza dalla tenera età. Te la dice tutto. Sua eccellenza. Quando un trans partorirà con dolore e farà un bambino di un neonato di 4,2 kg, io non lo rispetto, lo metto allo stesso mio livello. Allora ma mi dispiace. Ma chi se ne frega? Ma che vuol dire? Cioè, ma che non vuol dire? Ma che vuol dire? Ci facciamo col trans allora? E che ci facciamo col trans secondo te allora? Si sa il posto suo, sta tranquillo. Ma, non, ma che facciamo con gente come te? Ma che ci facciamo con un coglione come te? Andiamo invece? Avanti, stai sull'attenti Parenzo. Ma con un fuori, coglione così, che ci facciamo con un coglione? Sì, petto in fuori, stai attento che poi petto in fuori lo piglia il culo però, attento amico mio, perché i fascisti con il passo dell'oca erano noti per avere anche quel piacere lì, giustamente i fascisti, altro che col passo dell'oca si divertivano. Tutti ce lo pigliavano anche in culo i fascisti. Notoriamente. C'erano molti gay tra i fascisti. Ma tu scherzi, ma giustamente, ma figuriamoci. Fermi perché... tutti, fermi. La zanzara. Qua giù, se volete parlare al telefono con la zanzara, da fare l'800240024. Oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi, coppa WhatsApp 393-7171-701. Gottardo, Parenzo, è inutile che giudicate, etichettate come razzisti chi si è permesso di dire che anche colpa della madre se la bambina di 6 mesi è morta. Perché voi siete lì a commentare, ma non state facendo un cazzo per quella povera gente che dite. Non state facendo un cazzo, soprattutto te Gottardo, col tuo 100 kg, col tuo culone su un letto servito e riverito in una suite. Cosa stai facendo per quella povera gente? Dai Gottardo, fai cagare, eppure te Parenzo, però te Gottardo di più, perché Parenzo almeno si sa che è l'elite, e mentre te Gottardo no, te invece fai l'uomo del popolo, ma invece sei un pezzo di merda, va? No, io sono un uomo del popolo, del popolo, e ogni anno, e non dovrei dirlo ma lo dico, sostengo fattivamente il QAM Medici con l'Africa, per esempio. QAM Medici con l'Africa. Medici con l'Africa. Ma tu sei scemo. Medici padovani, che sono stati insigniti delle maggiori onorificenze a livello ma mondiale. Ma chi se ne frega? Nella ma chi se ne frega? Per esempio, una organizzazione bellissima nata a Padova. Cioè tu fai beneficenza? No, io sostengo tu fai beneficenza. Tu fai beneficenza. Beneficenza, okay. Quindi tu dovresti essere oggetto di beneficenza da parte di tua moglie che oggetto di beneficenza da parte di Natania. Tu sei oggetto di beneficenza ogni sera, deve venire solo per pietà. Fermi tutti, Paco da Belluno. Vai Paco. Due scrocconi in almeno per mesi. Dimmi Paco. Guarda, io ho resistito fino adesso a questo anno. Un po' di giorni che ti volevo chiamare, ma ho resistito fino adesso. Ma tu schifoso. Sei ma una roba da matti. Mi sente? Sì, ti sento, dimmi. No, come ho sentito la voce sotto. No, tu, sì, tu, alzate tu il volume di Paco, per favore, che sennò non sento. Dimmi, dai, forza. Sordo anche ormai. Tu sai cosa sei? Tu sei una. Tu sei un pezzo di merda molto raro, molto raro. Cioè, addirittura raro, molto raro. I gronchi rosa degli stronzi. Comunque sei un bella sei una bella compagnia con questi stronzi qua che difendi sempre. Ma Cruciani, ma ti rendi conto? Ma stiamo scherzando? Ma su che cosa? Ma intanto fammi dire una cosa prima di arrivare al discorso là della giornalista là di Libero. Ma Cruciani, ma non è che sei tu sei un ateo, puoi dire tutto quello che vuoi. Non è che puoi insultare altre religioni. Ma chi lei sta insultando? Chi sta insultando nessuno? No, esistono norme del genere. Allora, per me le religioni sono il male. Lo posso dire che sono il male? Lo posso dire che spesso sono causa di disastri assoluti? Ma perché devi insultare? Ma chi stai insultando? Ho detto che spesso sono il male. Allora, sai cosa diceva Chirac? Cosa diceva Chirac a Mitterrand? A Mitterrand in francese, no? Persona ha il monopolio della gueule. Allora fammi parlare, cazzo. Ok? Puoi parlare? Chi è che ti ha mai impedito di parlare qui? Dimmi, che cosa vuoi da me? Ma no, tu fammi, lasciami finire il mio discorso. Allora, se tu non credi a niente, e altri che credono a qualcosa, sono liberi di credere quello che vogliono. Ma quale prove avete tu, Giordano, tutta bella compagnia della Rete 4, quale prove avete che quel criminale che ha fatto l'ultimo attentato a Nizza, non so, a Lille, dove era, è un musulmano? Che problema? Ma certo che è musulmano, l'ha detto lui, rincoglionito, l'ha detto lui. Ma sei tu rincoglionito, rincoglionito sei tu. Lasciami parlare, pezzo di merda. Raro anche. Senti, spara di fuoco, l'ha detto lui. Se vuoi negare anche l'evidenza, sono cazzi tuoi. Non farmi urlare dopo il condominio, penso che sto litigando con mia moglie che non ho mai litigato. Fammi finire il discorso. No, spara di fuoco, tu hai litigato con altre persone. È arrivato il difensore dell'Islam, uno che beve, tradisce le donne, fammi finire il discorso. Il musulmano sono io, con tutti i miei difetti, che rispetto tutte le religioni. Di che volevi parlare? Ti deve fregare un cazzo, ti ho chiamato per te questo, allora, no, tu hai chiamato per la storia del bambino morto, pezzo di merda, ascolta qua, non fuggire. Ultimamente la stai prendendo da tutte le parti. Sei in declino come il psicopatico. Sei in declino, allora io sto dicendo, il musulmano sono io, che rispetto tutte le religioni. Ma chi anche dice niente, va benissimo, a fare recite di Natale dentro la chiesa. Io la mia religione, io sono praticante, pratico a casa mia. La mia religione la pratico a casa mia. Tuoi, io sono musulmano. Tuoi. Io non penso andare a ammazzare nessuno. Non penso andare a fare. Chi ha detto perché niente? Non parlare di questo modello? Ma perché io non posso essere un modello di musulmano? Perché non posso essere? Ma non sei modello? Molti musulmani non fanno niente. Certo, non ho visto grandi. Aspetta un attimo. Stai zitto. Giù, Paco. Ma vai a fare in culo. Non ho visto grandi ribellioni di musulmani dopo come quello no? Che è successo a guarda Parigi. Cosa grandi manifestazioni, grandi ribellioni. Guarda cosa ha scritto Abdallah Kabakebji. Ma che c'entra? Ma quello guarda cosa cazzo ha scritto Abdallah Kabakebji. Come scusami, no? Paco. È di un'associazione musulmana. Guarda Paco, cosa ha scritto. Paco. Tu sei un Paco, pezzo del merda. Fammi finire. È importante. Ma che hai da dire? Vai a fare il culo, Cruciani. Io sono un modello musulmano. Me lo rivendico. Io rispetto a tutti. Rispetto a tutti. Tutte le religioni, rispetto a tutti. Va bene, Paco, ma che cosa hai da dire? Allora dovete dire questo modello, il modello per voi, l'unico modello musulmano è quel che si fa saltare in aria, quel che ammazza gli altri. Madre, quello che ha detto l'altro giorno la giornalista di Libero, che cosa hai da dire? Avanti. È come te, è la stessa parrocchia come te. Vedrete prima o poi vedrete, ma tu devi andare in galera, cazzo. Tu ti devono mettere in galera e buttare via le chiavi. Tu sei un delinquente, Cruciani. Quando parla del Covid, parla del delinquente. Quando parla di religione, parla del delinquente. Quando parla da razza, che cazzo è, parla del delinquente. Tu sei un delinquente, cazzo. A te ti devono mettere in galera. Ma tu lo porteresti tuo figlio in mezzo al mare? In mezzo al mare, in mezzo con un barcone, in mezzo al mare. Lo porteresti tuo figlio? Questi scappano dall'Africa perché hanno gente di merda come te che le governa. È quello il discorso. Pezzo di merda che le governa. Come da me, anche a me in Senegal abbiamo un pezzo di merda per quello che queste ragazze scappano, cazzo. Scappano. Fermo, Paco. Donato, che hai da dire a Paco? Povero idiota, Donato. Donato, che hai da dire a Paco? Ma adesso quello che ho detto proprio idioti, gli vorrei una scatarata in faccia. Idiota. Se ti sputo ti profumo. Ma chi è questo qua? Se ti sputo ti profumo. Parenzo. Ma che c'ha? Voi sempre di merda questo. Allora, stavo dicendo, Paco, lo sappiamo bene, Paco, se dovesse ricevere quello che dice la Sharia, quello che sta accadendo. Rispetto per Paco, che fa l'operaio, che produce. Non rovinarmi la serata. Stasera ho la serata con mia moglie, non rovinarmi la serata, cazzo. Tu sei solo, tu sei un cretino, tu sei malato mentale, tu sei matto, cazzo. Vai farti curare, cazzo. Quando hanno ammazzato i cristiani, quando hanno ammazzato i cristiani in nome del tuo Dio, tu avresti dovuto sentirti incazzato e avresti dovuto dire: il mio Dio non è un mandante. Avresti dovuto dire che il mio Dio non è un mandante. Tu sei un malato mentale, vai a farti curare. Quindi, quando vai a farti curare per metterti a troppo tardi. Urlare contro i tuoi amici musulmani che ammazzano in nome di Allah, avresti dovuto dire: noi non c'entriamo niente con quell'assassino, perché il nostro Dio non ammazza in nome di Allah, il nostro Dio non ammazza i cristiani. Purtroppo ogni giorno arrivano qui i tuoi amici tunisini per prenderci questo paese. L'hanno detto: Allah Akbar, vogliono il nostro paese. Ci sono, ma hanno dominato mezzo mondo con i macelli. Cosa vuol dire Allah Akbar? Cosa significa Allah Akbar? Allah è grande, Allah, avete allora? Detto Allah. Allora, io non ce problema? L'ho con Allah. Qual è il tuo io problema? Ce l'ho con voi, io ce l'ho è con Allah i tuoi amici che è Allah che ce l'ha con te, è Allah che ce l'ha con te, è Allah che ce l'ha con te a renderti così ridicolo, così stupido, così scemo. Allah ce l'ha con te, tu devi prenderti solo con Allah, prenditelo solo con Allah, ha reso scemo. Fermi un attimo, fermi tutti, fermi giù tutti e due. Donato, che pensi di quella madre che ha portato il figlio su quel barcone, poi il figlio è morto, eccetera? È colpa sua, come dice la Barbuto? Ha ragione la Barbuto? Lì è colpa anche di quel porco maledetto, schifoso e delinquente che chiamasi Roberto Saviano, che sta sentenziando. Ma che c'entra, scusa, ma cosa c'entra Saviano? Cosa c'entra Saviano adesso? Lui è anche il promotore che ha fatto che questa Italia debba essere. Ma che c'entra Saviano? Ti assumi la responsabilità di quello che dici? Che c'entra? Saviano, devi lustrare le scarpe. Analfabeta che sei. Analfabeta che sei. Paco, che dici, Paco? Io dico che questo pezzo di merda deve prendersi solo con Allah, che l'ha reso così stupido. Guarda, se lo prendo con Allah, perché Allah l'ha reso proprio. Guarda, questo è un gran pezzo di merda. Che non mi rovina la serata, cazzo. Cruciani, io che non mi rovina la serata, che sono carico. Dai, no. Tu qua in Italia stai facendo quello che io nel tuo paese non potrei mai farlo. E tu lo sai. Ma chi te l'ha detto? Giù tutti e due. Ma va detto che Spada di Fuoco in Italia lavora, Donato non mi risulta. Ogni caso. Cioè, Donato non lavora? Ma no, Donato non ha mai lavorato in fabbrica. Spada di Fuoco, sì, scusami, dovrò rispetto. Rispetto molto di più Spada di Fuoco che Donato, lo stonato da Varese. Questo letano, questo qui se me sta. Ma cosa cazzo hai sempre strimpellato notte di merda? Sei un grande artista, mi sono emozionato. Quell'altro fa l'operaio almeno. E mi devi offendere. Che potevi lavorare in fabbrica. Giuseppe, guarda, io mi incazzo. Non hai mai lavorato in fabbrica. Disertore della catena di montaggio, disertore delle note musicali, figlio di mignotta, di dire menzogne. Ti faccio parlare da mia mamma, sai? Nel privato mi dice che sono un grande artista. No, nel privato mi fai pietà. Mi fai pietà nel privato. Mi fai pietà. Mi sanguinavano i timpani l'ultima volta che hai cantato. Fermi, cambiamo scenario. Paco, ci sei o no? Paco. Sono qua, Cruciani. Paco, alla fine sei un coglione, lo sai. Sei un operaio, va bene, lavori. Alla fine io ti voglio anche bene, cazzo. Quello mi dispiace anche un po', perché che ti voglio. Ti voglio anche bene, cazzo. Ma tu sei un pezzo di merda raro. Vaffanculo, vai a fare il culo. Fermi tutto, ciao. La Zanzara. Ho fatto 15 anni di nera, is the new, ho sempre lavorato, perché ogni volta che dici ho fatto 15 anni di cronaca nera, gottardo di merda, spari solo cazzate, informati, sei sicuramente quel giornalista classico che dice: ah, hanno trovato la siringa con dentro la marijuana, imbecille, picciu. Vaffanculo, non capisci un cazzo. 15 anni di nera is the new. Ho sempre lavorato. Ma vai a cagare, ciccione bastardo. Beh, ciccione no. Bastardo nemmeno. Bastardo a volte. Certo, io non sono tanto bastardo da rompere i coglioni di notte a bussare le porte dell'albergo dei miei amici. Ragazzi, io non voglio raccontare. David, non voglio raccontare perché. Perché non voglio che passi. Avrei voluto che ci fossi anche tu, David. Stanotte cioè, per essere testimone di quanto barbaro è costui. E rompete i coglioni ai clienti dell'albergo pure. Qui al Plaza si stanno lamentando tutti di quanto credo. Casino ha fatto Cruciani stanotte. No, una cosa indegna. Casino l'hai fatto uno. Con chi eravate? No, ma cosa io ho bussato, successo? Ragazzi, basta che cazzate. Ho bussato alla sua porta perché sentivo dei rumori. Basta, chiuso il discorso. Dei rumori sentivo. Amerigo dalla provincia di Chieti. Dei rumori, lui, i rumori di stomaco saranno stati. Lui sostiene di scopare per di poter scopare per due ore di seguito. Per due ore di seguito, manco Rocco Siffredi, per due ore di seguito. Amerigo dalla provincia di Chieti. Lui ha detto, io posso trombare per due ore di seguito. Quello, l'ultima volta che è stato in una donna e quando è entrato nella Statua della Libertà, ma figurati, quello lì è innocuo. Lo chiamavano Amerigo, piccolo giocherellone. Amerigo, provincia di Chieti. Dimmi. Ascolta, dimmi te, se un albergo deve pagare ma questi due sciamannati sto chiattone qua. Stanno distruggendo. Ascolta, l'economia del Veneto, cazzo. Parenzo, tu mi deludi, ti do del tu, scusami, per una cosa. Dammi del lei, sì. Sì, va bene. Per quanto riguarda il bambino annegato in mezzo al mare, dovresti far emergere, evidenziare che la mamma è una bambina anche lei, 15 anni. Ma certo, quando è stata abusata questa bambina. Può darsi, allora fammi parlare. Anche il padre ne ha 25, non molti di più. Il padre, quello che è stato arrestato in Grecia. Questa bambina, può darsi che i suoi genitori stessi l'hanno messo sulla barca con questo bambino. Ma infatti saranno colpevoli anche i genitori. Colpevoli anche i genitori di aver portato alla morte un bambino di 6 anni. Fammi parlare. Ma per carità, voleva portare verso una vita più felice. Io ho un figlio, secondo mio figlio di 16 anni, e lo vedo sempre abbracciato alla mamma, bisognoso di coccole. Un bambino. Certo, Rucia, assolutamente. Tu sei lo schifo in persona. Ma scusami, ma io dico il contrario. Sei l'emblema della merda. Amerigo, dico il contrario. Io dico il contrario, doveva rimanere abbracciata. Doveva rimanere abbracciata a quel bambino, non portarlo su una barca. Voleva salvarlo. Dico esattamente al contrario. Sono molto più umano di te. Sono molto più umano di te. E mi dispiace che il dottor Parenzo non le fa uscire queste cose, perché tu sei un fenomeno da baraccone e fai odio su questi. Sono molto più umano di te. Sono molto più umano di te. Sono molto più umano di te. Stai speculando su una scelta dolorosissima di una madre. Pazzesco, infatti. Pazzesco. Speculando sulla scelta drammatica di una madre che, per provare a migliorare le condizioni di vita proprie del figlio, ha affrontato una cosa così incredibile e difficile. Questo è il tema. Siete voi lì in stanza d'albergo a fare pure il commentino. Ma come? Abusiva solo perché noi siamo nati in Occidente e siamo fortunati. Io sono a favore delle regolamentazioni. Certo, siamo fortunati e non ci vergogniamo di esserlo. E non lo sono per nulla, almeno non derido le scelte estreme di altri, almeno non le derido. Tu sei capace di parlare solo di leccamenti, ecco, di froci, puttane, e di quello che è il tuo ambito, contro i froci. Che hai contro i froci? Tu ci fai spettacolo, io no, io ho amici. Che cos'hai contro i froci? Avanti, cos'hai contro i froci? Amici che sono froci, quindi anzi, io mi risentirei pure da parte loro. Però li chiami froci, vedi, li chiami froci senza problemi. Non è un'offesa la mia, sicuramente no. Ma meno male, anche secondo me non è un'offesa. Bene, il sinistroide che ha chiamato dice che si possono chiamare froci, va benissimo. No, non sono un sinistroide, 5 Stelle, stupido. Tu sei alleati col PD, non sei alleati col PD. 5 Stelle, tu stupido. Sei una persona, sei un abominente, una fogna, cruciate, una fai Amerigo, spettacolo. Amerigo, ti mando serenamente, serenamente, teneramente a fare in culo. Grazie, grazie, vaffanculo, a te e tua sorella. Ciao. Intanto Salvini si incazza con chi dice che non potremo fare Natale. Mandiamo qualche audio di Salvini, vai. Salvini, non lo mandiamo più ormai Salvini, per forza. Non fa più notizia, per ormai forza. Non fa più notizia. Salvini si incazza ma con quelli che dicono... Ma oggi ti hanno chiesto di mandarlo oggi, ti hanno chiamato e non puoi mandare Salvini. Ti ha chiamato Morisi. Chi ti ha chiamato di questi qua? Ma chi ti ha chiamato? Lo spindoctor per piacere. Ti ha chiamato la bestia di Morisi per dirti dai mandalo, scusami. Ricordati di noi. È talmente forte questa bestia di Morisi. È talmente forte che Salvini è in disgrazia politicamente, figurati un po'. È talmente forte questa bestia che avete descritto di Morisi che chissà perché Salvini è in disgrazia. Beh, non contano un cazzo queste cose. Nell'alimentare la vera vittima del Covid. Salvini. La vera vittima del sì, Covid. Questo è vero. Questo è vero. State attenti, state lontani. Ti è Natale, eccetera, eccetera. Quando eccetera. Ci sono i clandestini. Che... posso dirti che quello che hai fatto ed è inizio trasmissione con quel virologo. Che consigliava di passare il Natale via Skype. Già, ne parliamo anche di questo ridico. Dopo. Ne parliamo di questo prima, ma le devo chiedere un'altra posso cosa. Posso dirlo? No? Natale via Skype se lo passi lui. Lo passi lui. Possono lasciare ai nostri figli quantomeno il sogno che la notte di Natale arrivi con mascherina o senza mascherina Gesù Bambino? Ma senatore, parliamo dopo del Natale. Che adesso possono vedere di... mamme e papà coi nonni? Mi faccio ma ti pare normale che uno a metà novembre vada in televisione a dire fate il Natale su Skype e comprate i regali su Amazon? Ma basta con sta Amazon. Io ho visto che c'è in Francia una petizione, la sto studiando e mi piace. Sostenuta anche dal sindaco di Parigi, Natale senza Amazon. Qual è? Ma non perché siamo dei retrogradi. Evviva la tecnologia, evviva Amazon Prime, ma vogliamo desertificare le nostre città, massacrare le nostre botteghe, i nostri negozi? Possiamo almeno pretendere che paghino tutte le tasse come tutti gli altri? Ma certo, bravo, troppo proposta... facile. Bravo questo, giusto, proposta che ha fatto l'Europa infatti, bravo, esatto. Giovanni da Ragusa, Giovanni la proposta da Ragusa, che ha fatto vai. L'Europa, Sassoli, di far pagare sogno. Le tasse in Europa ai grandi player, io ho un certo. Sogno. Ho un sogno, Salvini senza Facebook, Twitter e YouTube per appunto, esempio. Se esatto. Potrei anche fare il Natale. Giovanni da Ragusa, Giovanni da Ragusa, state zitti, avete detto due cazzate. Ciao, Giovanni da Ragusa. L'Europa ha proposto sì. La tassazione ai grandi player. Se ne fotte dell'Europa, non fa un cazzo l'Europa, Giovanni da Ragusa. Dite che non fa un cazzo, come no? È quello che ha proposto Salvini. Ma chi ha proposto tutte proposte l'Europa lo sta già facendo e non fanno una sega a proposto una sega? I Giovanni. Soldi che ti arrivano adesso, ma chi se ne frega adesso soldi? Della tassazione e stiamo parlando di altro, ma l'ha detto lui, se il tuo amico Giovanni? Salvini l'ha detto adesso svii, ma perché l'ha detto amico, lui se siccome l'ha detto lui va bene, lo fa l'Europa non va bene. Giovanni dimmi. Ciao Grugio. Voglio promettere per quel bigotto di Gottardo che ci stiamo fumando una canna con degli amici in piazzetta. Distanti e una festa per allora, il rispetto delle norme Covid. Dove? Che regione? In Sicilia. In Sicilia, zona rossa, dovete stare a casa. Zona arancione, arancione. Devono arrivare i carabinieri. Devono arrivare i carabinieri e arrestarvi. Ma stiamo rispettando le norme anti-Covid. Il fatto che mi fumi una canna. Pandemia colposa. Ma e che vi salvate dalla vostra tossicodipendenza. Ma quale tossicodipendenza? Potenzialmente dei tossicodipendenti. Vi fumate le canne. Va bene. No, non va bene. Non va bene bere la birra se accompagnata da sostanze stupefacenti. Poi col Covid. No, no, siete, dico, siete perché congiunti? Tu ti vuoi bere una birra? Io non mi posso fumare una bomba. Perché la bomba, sì, come la chiami? Ha ragione lui, bomba, ha ragione stordisse, lui, stordisse ha ragione lui. Quel povero cervello che ti rimane, che si brucia con la droga. Pensa ma a Parenzo, era intelligente, al liceo era intelligente, poi ha iniziato a fumarsi le canne e guarda come è ridotto Parenzo. Potrebbe essere come Telese. Come ma non si è mai trovato. Guarda, allora, Parenzo sì, guarda la differenza. Posso dirvi una cosa, ragazzi? Posso dirvi una cosa? Giovanni da Ragusa si sta Bellissimo. Fumando una canna in una piazzetta con dei suoi amici. Non mi interessa se se ne fuma. È un incoglionito. Non mi interessa se se ne fuma. È un incoglionito della droga. Non mi interessa se se ne fuma due, tre al giorno. Non mi interessa. L'importante è che non si mette in macchina. Fosse legale quella droga, fosse legale, ci guadagnerebbero tutti. Bene, sia Giovanni, sia lo Stato. È ma tu sei così. Un lo pazzo. Lo Stato non può guadagnare su roba che fotte il cervello. Vabbè, ciao Giovanni, ciao. Ma abbiamo con noi, ragazzi, Annalisa Chirico. Buonasera. Ciao Giuseppe, un trionfo. Ciao Annalisa. Piedi. Allora, l'argomento è questo. Annalisa, sono sicuro che è dalla mia parte sulla questione Pupo, cioè dalla parte di Pupo in realtà, che io ho appoggiato. Pupo ieri qui alla Zanzara ha detto quelle del grande le donne del Grande Fratello. Io allargo il discorso, dico anche tutte le donne, non dico solo quelle del Grande Fratello, le donne che partecipano al Grande Fratello vorrebbero tutte sposare un milionario. Ma io figurati. L'ho anche allargato il discorso, ho detto in realtà tutte le donne preferiscono un milionario ma a un figurati. Morto di fame. Ma stiamo parlando di una cosa normale, non capisco lo scandalo. Annalisa, dimmi la tua. Ma io penso che anche una donna realizzata nel proprio mestiere, anche una donna di successo che guadagna bene, preferisca ovviamente accompagnarsi a un uomo di uguale successo, di uguale capacità anche economica, piuttosto ma che no, ma intelligente, simpatico, no? Ma che vuol dire? Ma sarà intelligente e simpatico, non è che deve essere un miliardario. Ma l'amore segue le regole che solo il cuore conosce, quindi uno si innamora nella vita anche di quello che mai avrebbe detto, però se la persona... Se potessi scegliere, io sceglierei una persona che ha una capacità economica importante, non magari. Ma magari è un coglione, però. Ma perché? Ma magari invece di innamorare divorziare, poi divorziare. Ma perché? Scusami, ma può essere. Siamo concreti e siamo. Ma scusa, se tu vai a cena con uno, non è che gli chiedi il conto corrente. Falla finire, falla finire. Una persona si innamora anche delle cose che fa, delle esperienze, delle cose che fa con un altro uomo. Allora è chiaro che una persona che ha una ridotta capacità economica ha difficoltà, che ne so, a portarsi a cena fuori o farti fare delle belle vacanze. Ma che vuoi dire? Quando due si innamorano, Davide, è anche importante la qualità del tempo che uno passa insieme. Ma io quando non lavoravo avevo delle fidanzate meravigliose, ma che cazzo vuol dire? Non vuol dire niente, ero simpatico e comunque ho conquistato molto. Ma che vuol dire? Il principio è ma questo. Ma il principio è un'idiozia, ragazzi. Ma quando tu vai a cena con uno, ma perché dovete essere ma perché è una stronzata? Sì, quando tu vai a cena con uno, spero, non è che gli chiedi il conto corrente o dove ti porta. Se ti diverti e ci stai bene, ci vai. No, non è che gli dici scusami, però adesso scusami, mi porti però, alle Seychelles. Annalisa, scusami. Io a differenza tua, non sono ipocrita, Davide. Dico che difficilmente nella mia vita mi sono innamorato, infatuata di uomini che non avessero delle posizioni importanti, ma io anche capacità economica. Ma io mai ho chiesto la posizione a uno. Ma non è che chiedi la posizione, al massimo scegli la posizione, permettimi questa battuta da fare. Esatto, in realtà sì, certo, la capacità va bene. Economica dipende, la conosci perché sai quella persona che lavoro fa e capisci quello che può fare. Ma certo. Che te ne frega, ma ti innamorerai, ma che magari è una selezione pazzesca. Dice una cosa, dite delle stronzate. No, ragazzi, Annalisa dice una cosa, dite delle stronzate, dite. Ad esempio Cruciani non spende una lira per le sue donne, è un cagno pazzesco, ma che cazzo mi è? Mi piace per Cruciani. Non spende una lira, non infatti, ha mai pagato una cena a nessuno. Infatti le donne non mi vengono dietro perché ho dei quattrini. Annalisa, per esempio, non cerca me, cerca, che ne so, Montezemolo. Ma io mi sono innamorata anche di persone normali, però dico che so quello che voglio, passato, però ho anche la nel passato. Ho anche la fortuna, Giuseppe, di potermi pagare da sola le belle vacanze e i bei vestiti, ma penso che difficilmente sarei attratta da un uomo a cui devo pagare la cena, perché sono un po' nazista, preferisco che un uomo mi paghi la ma cena. Ma no, ma pagare la cena no, ma magari ho capito, la mica ti deve sempre portare nel ristorante stellato, però, quello, pagare Davide, una cena. Vabbè Davide, noi sappiamo, noi viviamo molto una vita di relazioni, andiamo molto a cena fuori, siamo concreti, ma anche tu voglio dire, tua moglie fa la giornalista. Cioè non è che hai sposato una morta di fame, su, dai, che hai sposato una morta di fame. Ma che vuol dire? Ma non vuol dire perché nulla proprio. Ma perché dobbiamo raccontare che ci si può innamorare di chiunque? Non è vero, purtroppo. Ma io quando mi sono innamorata mica ho chiesto il conto corrente a nessuno, ma che siamo ma matti? Ma devi chiedere il conto corrente. Ma la prima volta quando sono uscito a cena siamo andati in una bettola del cazzo, ma che vuol dire? Ma non è che tutto il mondo gira. Ma io posso divertirmi una sera in osteria, per fortuna, e ci vado anche volentieri ogni tanto. Ma sempre, ma è un modo molto sclerotizzato di ragionare proprio. Però che no, non è secondo me sclerotizzato, secondo me Pupo ha detto una cosa di e grande e poi ti togli tutta una grande parte di persone, ti togli la curiosità di conoscere Pupo il mondo. Pupo ha detto qualcosa che fa pugni con il politicamente corretto, ma che è una roba superficiale, perché ci sbatte in faccia anche una parte di noi, cioè il fatto che cerchiamo di scegliere tendenzialmente persone che ci fanno stare bene e che stanno bene. Dopodiché superata l'idea, permettetemi, bene, delle cioè, anche tu, scusami, anche tu quando dal milionario. Giuseppe, perdonami, però perché parlavate delle donne del Grande Fratello. Allora, secondo me lo stereotipo della valletta che si fa mantenere dal predatore di turno, questa roba qui è un po' superata. Cioè oggi io mi ritrovo, io, le mie amiche, le donne che conosco, che piuttosto siamo noi che a volte dobbiamo magari a pagare la cena all'uomo, nel senso che oggi le donne sono molto forti anche economicamente, anche lavorativamente. Sì, però anche quando, la donna quando tu guardi un uomo... preferisce stare con uno ricco e non con uno sì. Povero, cioè... anche tu quando guardi un uomo dai un'occhiata alla carta di credito, diciamo la verità. Siamo alla, no, io non ho mai guardato la carta economica, di credito dai. Di nessuno. Alle capacità economiche, alla posizione, sono, dai. Certo, certo, difficilmente nella mia vita, ma per lo stile di ma vita che mai? Ho, per le mie ma curiosità. Ma perché mai, scusami? Tendo, cioè ti togli la possibilità belle. Di conoscere tante altre persone che magari no, non hanno una lira chiunque, e sono no, di una e magari possono essere intense, ma non potrebbe avere una relazione con uno skipper, per quanto affascinante, per quanto affascinante, non potrebbe avere la relazione con uno skipper di una barca, mai? Non potrebbe avere mai? Se io frequento che tutte le persone che trovo intelligenti e interessanti, vado appunto a cena con il mio personal trainer e vado col mio barista sotto casa e mi diverto tanto. Dico però che difficilmente mi sono innamorata nella mia vita di persone che non potessero anche coincidere, far coincidere e realizzare i miei desideri. Per esempio, a me piace molto viaggiare. Mi piace andare in dei ristoranti che costano, siamo sinceri. Mi piace fare delle attività che difficilmente potrei proporre. Scusami, Annalisa, ti voglio chiedere una cosa. Stralunato. Un'altra polemica che ha fatto una giornalista di Libero è sulla madre di una. Sì, una giornalista di Libero ha fatto una polemica su una madre che ha portato il figlio di 6 mesi su un barcone. Questo figlio è morto. Lei ha detto, insomma, qualche responsabilità questa madre un po' ce l'ha. Cioè, nel senso, se non l'avesse portata su un barcone a novembre, su un barcone a novembre con il mare mosso, questo bambino di 6 mesi, insomma, qualche responsabilità nella morte del figlio questa madre ce l'ha. Io le ho dato ragione, perché non dobbiamo non considerare pure questo aspetto, tant'è che in Grecia oggi hanno condannato un padre afghano di 25 anni perché ha portato un bambino di 6 mesi, sentenza il suo bambino di 6 cazzo. Mesi su un barcone è stato preso e arrestato, sentenza questo qua idiota. Perché ha messo in pericolo è morto. Purtroppo. Però non siamo ipocriti su questo qua. Voglio una parola d'analista su questo. No, io penso che lì c'è un grande tema, che è quello della legalità. Cioè, io penso che l'indifferenza collettiva. Noi ci incazziamo se il vicino di casa non paga la multa, e poi però ci sembra normale che ogni giorno arrivino centinaia di persone nell'assoluta illegalità, perché arrivano in Italia e non hanno diritto. Ormai l'ha detto l'altro ieri il ministro dell'interno: 40% dei migranti che arrivano sono tunisini, e in Tunisia non c'è nessuna guerra. Il che significa che non siamo in grado, non dovrebbero entrare, e poi non siamo in grado neanche di gestirli e di controllarli, perché infatti poi si muovono indisturbati sul territorio nazionale. Sulla mamma, io penso che la vita, dirò forse in questo qualcosa di politicamente scorretto, io non penso che la vita di un trentenne valga meno di quella di un bambino di 6 mesi. Quindi il tema è che qui muoiono purtroppo nel Mediterraneo non soltanto i bambini di 6 mesi, ma anche gli adulti. Quindi c'è un tema di stragi di vite che stanno una madre e un padre che portano su un barcone in pieno novembre un bambino di 6 mesi, lo volevano hanno salvare. Qualche responsabilità la responsabilità c'è, perché esercitano una padre potestà, lo direbbe qualunque giudice. Ma lo volevano salvare dalla guerra, la responsabilità c'è perché faccio la stessa domanda che ho fatto al Barbuto. Lei ha figli? Io no, non ho figli. Ah, ok, perfetto, basta. A posto. Ma che c'entra? Non è che chi non ha figli non può parlare. Ma che c'entra? No, ma certo che può parlare, però non capire che una madre e un padre, ma non è buonismo. Ma guarda che il buonismo non c'entra nulla. Una madre e un padre farebbero qualunque cosa pur di salvare il proprio figlio e di metterlo in condizioni migliori. Chiunque di noi, fatela parlare invece di aggredirla. Io penso che pagare un trafficante, dobbiamo dire, partiamo da dove partono questi due genitori, mamma e papà, tutto perché in teoria, parli tutto in teoria. No, andiamo nella pratica. Questi pagano un trafficante per arrivare in Italia, pagano un trafficante, quindi pagano un criminale. Beh, perché il traffico di esseri umani è un crimine orrendo. Peraltro. Poi si mettono su un barcone guidato da non si sa bene chi, cioè da criminali. Tutti ammazzati in tempi di Covid, ma anche gli ebrei pagavano i passeur, in condizioni di assoluta indecenza sanitaria, appunto, che schifo sti negri sporchi, per la propria vita, che schifo. E diciamo la verità, no, io la domanda che le pongo è: quella donna è adulta e può decidere di mettersi sul barcone, ma il bambino di 6 mesi ha scelto lo fa per salvarlo. Anche Gesù e Maria sono scappati in Egitto. No, anche Gesù e Maria sono stati profughi. Ha ragione Annalisa, i bambini piccoli no, i bambini piccoli, quel bambino piccolo non ha scelto un cazzo, non ha scelto un cazzo, un destino diverso. La madre decide per lui, lo mette nelle mani, certo, decide di regalargli un destino diverso. Qualunque genitore vorrebbe regalare al proprio figlio un destino diverso. Una estate disperata, ma dite delle cazzate. Qualunque genitore al mondo vuole offrire un destino diverso al proprio figlio. Italia arrivasse legalmente, sì, con l'aereo, con l'aereo, con l'aereo business class, con la freccia alata, con la freccia alata arriva, con la freccia alata, perché dai, non ha diritto di venire in Italia come i migranti, sì, dalla arriva con la freccia alata nel loro paese, nella saletta Ulisse, nella saletta freccia alata di Fiumicino. Fermi voi due, ha ragione lei, per un motivo, ragazzi, giù tutti quanti. Ha ragione lei, perché voler bene a un figlio, come dite voi, come dice Gottardo, non vuol dire fare il suo bene per forza. Non dire cazzate. Ma tutta teoria. Ciao Annalisa. Ciao. Buon lavoro. Ciao. La Zanzara. Ma che i trans e i ricchioni siano malati mentali, questo mi sembra chiaro, mi sembra ovvio, perché una persona che si guarda allo specchio non si riconosce, si vuole tagliare l'uccello, vuole fare il ricchione, si vuole vestire da donna, normale non è. Cioè, venitemi a dire che è normale, ma normale non è. Cantatevela, suonatevela, queste sono tutte le stronzate che si contano, questi malati mentali, sono più femmina di una donna vera, ma questo lo conti nella testa tua. Crucia, ma tu devi distinguere, stanno sti fessi da tutte parti, giovane, vecchio, non si capisce niente, ti metti a guardare sti ricciuni, te rifatti, caparna, dei mostri uscire, entra ai circa, ma che cazzo state parlando? O fuoriccione, ma non ci scasso cazzo! Allora ragazzi, stanno girando delle frasi, io non capisco perché girano ancora, che io ho detto in un'intervista ad un magazine in questi giorni di presentazione del mio libro, no? E come quella godo nel vedere la mia donna con un altro, vabbè, queste cose che ho detto già anni fa. E poi soprattutto un'altra frase, la fedeltà non è una cosa naturale. Ma perché voi veramente pensate che la fedeltà sia una cosa naturale? Cioè, la infedeltà è un qualcosa che appartiene, come dire, al mondo della natura. Cioè, la natura è l'infedeltà. La natura è una cosa innaturale, è la fedeltà. Cioè, la monogamia è tutta. Poi dopodiché uno può aspirare alla fedeltà. Io soffro perché non sono fedele, per esempio. Cioè, quando mi innamoro di qualcuno, cioè quando ho un sentimento nei confronti di qualcuno, mi è successo qualche volta nella vita, come sapete voi amici miei. Ci vorrebbe una musica di Chopin in sottofondo, però. No, posso dire le confessioni a cuore aperto del giovane Cruciani. No, giovane no, perché ho 54 anni. Fedele a niente, non c'è dubbio. Ho detto, ma certo, fedele a niente, neanche alle idee, a nulla proprio. Come una banderuola. Quello non te lo permetto. Però posso dire, in base al clima, hai cavalcato quel movimento, quell'altro movimento. Sono sempre stato molto più coerente di te, che sei alleato con i 5 Stelle. Che adesso puro. Lecchi il culo a Conte, mainstream mentre quando era con Salvini lo massacravi. Mainstream puro, proprio sempre surfato sugli istinti popolari. Allora ragazzi, posso dirti una cosa? Stavo dicendo una cosa molto seria. La fedeltà, cioè, ma figuriamoci, certo, va bene. No, assolutamente no. Si può tendere, può capitare di far casino. Però voglio dire, se uno è innamorato. Le volte in cui, ma che cazzo dici, fosse così semplice, allora dai su, non rendere la certo cosa così che semplice. Non è semplice la cosa, però un conto prima è essere infedeli, prima o poi seriali. capiterà anche a te, ma non ti preoccupare, io non lo posso, arriverà. Natalia si scoperà un altro. Beh, Posso dirti questo annuncio? Il tema non è questo qua, però. Ma il tema fatene non è questo. Intanto non parliamo di casi personali. Ma guarda, il tema Davide, è la vostra Davide, serialità. Se dovesse succedere, scoprirete anche meglio. Ti do questa notizia. Il tema è la vostra. Io ho capito che avete delle vite devastate voi due. Però non è che tutti hanno delle vite devastate. Sì, ho capito. Avete delle famiglie sfasciate. Va bene. Vabbè, allora ho avuto la fortuna quello di costruire quasi matrimoni. No, io però almeno ho ricostruito. Sì, ma io non è che ho fatto Io almeno però ho ricostruito un'altra famiglia. Ho costruito un'altra famiglia e ho fatto tanti figli. Vabbè, e via. Vabbè. Perché ho questa vocazione qua. Ma non è che dico che tutti voi dovete fare la stessa cosa che ho fatto io, tutt'altro. Allora, però non venite a farci la lezioncina del Latin Lover. Basta, avete una vita, vi piace così, nessuno vi critica. Se le vostre fidanzate sono felici così. Io stavo dicendo una cosa. Stavo dicendo una cosa molto seria. È una banalità dire che è difficile mantenere la certo che può essere difficile. Certo che può è molto essere, difficile. Ma dipende cosa uno cerca. Ma dipende cosa uno cerca. Se uno non cerca, allora, non è difficile. Posso dirti una cosa? Se uno non si mette nella condizione, no, ma per dire che se uno, ma non ho bisogno di autoconvincere. Ma mi fai finire o no? Mi fate finire o no? Giù tutti e due. Ogni tanto devo intervenire così. Mettete giù tutti e due. Devo intervenire così perché non avete una regola. Cioè, stavo dicendo una cosa molto semplice, che quando uno sente qualcosa nei confronti di un'altra persona, quando uno sente una cosa, ovviamente la propria natura qualche volta confligge, cioè l'infedeltà è in contrasto con questa roba qua. Dunque tu sai che stai facendo una cosa che non va fatta e dunque soffri per questa roba qua. Io qualche volta, non ti nascondo, ho sofferto per la mia infedeltà. Cioè, questo volevo dire, una confessione a cuore aperto vi volevo fare a voi amici, quelli che ci stanno ascoltando, a David Parenzo, ad Alberto Gottardo. Ho sofferto per la mia infedeltà e qualche volta soffro anche per la mia infedeltà. Ma che vuoi fare? È così, è ci dovrebbe essere un miglioramento progressivo, però c'è però sofferenza qualche volta, perché quando un'altra persona non è come te, quando un'altra persona non è come te, è evidente che tu soffri per questa roba qua. Vabbè ragazzi, entriamo in un altro mondo però, nel mondo magico dei gilet arancioni e di Pappalardo. Qualche giorno fa il generale Pappalardo ha dato un annuncio. Il suo vice, il signor Pino, ha il Covid. Sentiamo. Stanno finalmente dando le indicazioni come curare il Covid-19 standosene a casa. Il nostro vicepresidente ha preso il Covid, così mi è stato detto, ma non è andato in ospedale. Si sta curando tranquillamente a casa. Io a Giuseppe Pino faccio i miei migliori auguri perché si sta curando bene, assistito dalle figliole. Lo curano con i metodi tradizionali, lo sciroppo. Con che cosa? Contro la tosse, i fumetti, i giusti medicinali che si usano contro un'influenza. E mi dicono che ormai è in via di guarigione. L'ho sentito a Pino, mi ha detto: generale, è un po' duretta questa influenza, mi creda, è un po' rognosa. Però affrontandolo in questa maniera, non andando in ospedale, perché se domani ti ammazzano in ospedale, standosene a casa con i familiari che ti aiutano. Chiamiamo Pino, il luogotenente di Pappalardo. Cosa succede? Quello col Covid. Sì, quello col Covid. Dice il Pappalardo che ha il Covid, lui che è quello no mask, il Covid tutta una puttanata, eccetera, ha preso eccetera. Il Covid. Senti. Pronto? Pino? Come stai innanzitutto? Caro Cruciani, allora la prima parolaccia, la prima frase offensiva vi mando a fare in culo. Sì, ho capito subito, ho capito perfettamente. Io voglio capire come stai innanzitutto, perché hai preso il Covid. Io sto benissimo e ti ringrazio che ti interessa la mia salute, ma adesso sto bene. Ho passato qualche giorno brutto, ma sto bene adesso. No, ma dico, qualche giorno brutto cosa vuol dire? Tosse? Che cosa vuol dire? Ho avuto un raffreddore più forte di qualche altro del passato che ho avuto, tutto qua. Però scusami amico mio, tu sei uno di quelli che diceva è poco più di un'influenza, non è niente, eccetera, eccetera. Io sono quello che dice che ancora è un'influenza. Ho avuto una influenza più forte di qualche altra che ho avuto in passato. Però l'hai presa perché evidentemente non hai preso le precauzioni, giravi senza mascherina, certo. Incontravi gente. Ma perché quando si prendono le influenze uno deve portare le mascherine? Scusa. No, ho capito, però lì magari con le mascherine non te la prendevi. Ma non è vero niente, perché il mio non è un Covid. Il mio, ti sto dicendo che ho un'influenza. Ho capito, però c'è il Covid, hai fatto il test ed è Covid. Aia, torna col Covid, scusa. Se ti dico che è un'influenza, magari, allora, siccome io non c'ho febbre, va bene, l'unica cosa ma che ho... Ma l'hai fatto il test o no? È negativo. Ma è, adesso allora, è negativo, prima era positivo, ma scusa, ma l'ha detto Pappalardo che ti sei preso il Covid. Ha detto Pappalardo, ma l'aveva preso lui. No, lui ha detto, Pino si è preso il Covid. Ma non è vero, l'ha preso lui il Covid. Ma dite cazzate anche tra di voi allora. Ma no, cazzate, che... gli dici tu e lui. Ma dite cazzate tra di voi, siete un branco di... Ma le cazzate le dici tu ma siete un branco di poveretti. Scusa, ti ho parlato di Covid, io. Ma scusami però Pino, io ho sentito un audio di Pappalardo in cui dice chiaramente Pino si è preso il Covid. Vabbè, ma lui si assume le sue responsabilità di quello che ha detto. Che dice cazzate come sempre stai dicendo, ma io sono d'accordo con te questa volta. No, le dici tu. No, ma le dite io voi. Sto dicendo ma se scusami però, ragioniamo, se quel generale, quel cosiddetto generale lì dice che hai preso il Covid e adesso dice che non l'hai preso, chi è il coglione? Ma io non lo so. Ma hai appena detto che non l'hai preso. Ma ragazzi, siete un branco di spostati siete. Allora Parenzo, se vuoi che continuiamo parliamo. Ma ti ho chiesto, scusami, Pappalardo dice che... anche le mie regioni. Sì, ma non le ragioni, c'è la scienza, scusami, io ti credo. Però Pappalardo dice hai preso il Covid. Tu dici che hai preso un'influenza e sei negativo. Siete due spostati, lo possiamo dire o no? Che non c'è una versione che spostati, non c'è una versione che torna, che coincide tra che di voi. Che spostati? Spostati, due spostati. Dice la tua. Io dico ho capito, la ma libertà di dire stronzate, siete due spostati, ma appunto. Scusami Pino, però abbi pazienza. Io ti sto dicendo che sono stato negativo. Io sono negativo. Ma perché Paolo Pappalardo dice che ha preso il Covid? Ma vogliela dire a lui, vogliela dire a lui. Ma lei è il collaboratore di Pappalardo o no? Lei è il collaboratore di Pappalardo? E che ci significa che dobbiamo avere il Covid tutti e due? Siete due spostati se non dite neanche la stessa cosa. Ma che cazzo stai dicendo, Bruciani? Ma lei non ha preso il Covid, lei ha battuto la testa in terra e definitivamente è diventato idiota definitivamente, già lo era prima. In più si somma la caduta. Grande figlio di puttana, ma perché si arrabbia? Ma perché si arrabbia? Ma che devo dire, a trovarti a rompere il muso? Ma lei è un povero spostato. Ma di merda, passa il pezzo di merda. Spostato sei uno spostato. Sei uno spostato. Sei un figlio di puttana. Ma tu sei un povero spostato. Sei un disonesto figlio di puttana. Sei un figlio di puttana. Ma perché ti agiti così? Calmati, Pino. Allora, ti sale la febbre dopo, spostato di merda. Beh, è guarito però. Richiama il generale. Generale Pino, signor Pino. Allora se c'è Parenzo non parlo, eh. No, Pino, ti faccio sentire Pappalardo. Ti faccio sentire quello che ha detto Pappalardo. Allora vediamo così. Allora ascolta. No, ti faccio sentire, te lo faccio ascoltare. Se te lo faccio ascoltare. Ti dico questo. Qualsiasi cosa che sento di Pappalardo non mi interessa più, lo sai perché non mi interessa più? Bene. Perché grande io notizia, non faccio successo? Più parte del Gile Arancione. Questa è la buona notizia. Aspetta un attimo, Pino. Senti questa cosa qua. Senti. Stanno finalmente dando le indicazioni come curare il Covid-19 standosene a casa. Il nostro vicepresidente ha preso il Covid, così mi è stato detto, ma non è andato in ospedale. Si sta curando tranquillamente a casa. Io a Giuseppe Pino faccio i miei migliori auguri perché si sta curando bene, assistito dalle figliole. Capito? Allora, ascoltami bene una cosa. Ma poi vicepresidente era lui. È una responsabilità sua. Porca miseria, io vicepresidente. Io ti sto dicendo, innanzitutto, non mi interessa più che mi fa vedere sentire Pappalardo o meno, perché io non ma faccio ha detto più che c'hai il Covid, l'ha detto lui che ti sei preso il Covid. Allora ti devo attaccare. Ho capito, ma perché me l'hai fatto sentire, l'ha detto lui, però io ti dico, io Pino Giuseppe, ti dico che sono stato, non sono positivo. Ma ho capito, dirvi, ma allora mettetevi d'accordo. Siete una coppia di due spostati, siete una coppia di spostati, siete due spostati. Al generale Pappalardo. Siete una coppia di due spostati, siete Totò e Peppino, quelli però facevano ridere, voi siete tragici, siete due spostati, se ne renda conto almeno oggi, in modo plastico. Ma che significa sta parola? Porca puttana, che sei uno svalvolato, svalvolato, uno spostato di cervello, tu e quell'altro, presidente e vicepresidente di sto cazzo, due svalvolati, lo dico da sempre. Porca miseria ladra. Ma tu chi sei? Parenzo lo stronzo sei tu, chi mamma sei tu? Mia, mamma mia. Sì, Parenzo, chi Parenzo, sei lo stronzo, sì, quello lì, sì, che fa, sì, le moine ai comunisti. Io sarò anche, ma io sarò anche lo stronzo. Ma voi siete due coglioni, due poveretti, il Gino Gianni, il generale, il vice del generale, eh? Ma che? Ma è un B-movie, che cazzo è Alvaro Vitali? Ma che roba siete? Ridicoli. Ma che roba sei tu? Testa di cazzo, che adesso roba sei tu? Arriva lui e dice no, Non faccio più parte dei gilet gialli, non sono più vicepresidente. Vicepresidente di sto cazzo, imbecille. Ma vaffanculo, tu. Ma chi ti vuole chiamare? Io non ti chiamerei mai. La Zanzara. Volevo dirvi che ho appena elaborato una perizia circa l'audio della millantata indole sadomaso e passiva di Parenzo. Posso onestamente ammettere che è attendibilissima. Attendibilissima. La Zanzara. Volete sapere qual è la vera differenza fra un puttaniere e un miserabile, come li chiama David? Che un vero puttaniere ascolta la sua puttana. Esempio semplice, cari amici miei, quando andate a Mignotte, se vi dicono, che ne so, via Garibaldi 125, quando arrivi, telefona. Bene, perché voi arrivate a via Garibaldi 125 e suonate tutti i campanelli? Mentre i miserabili fanno questo, i veri puttanieri ascoltano la propria puttana. Quindi, cari miserabili, non rompete i coglioni. Se vi dicono a questo indirizzo telefonate, non suonate a tutti i campanelli, peggio ancora alle 3 alle 4 del mattino. Fatevi una sega. Ciao amici puttanieri, I love my radio. Francesco da Roma, vai Francesco, dimmi. Francesco? Sì, ti sento, mi senti? Sì, dai, poi ti devo sentire bene però, dai Francesco, su. Sì, ti sento. Allora, volevo segnalare inizialmente, riguardo l'indole passiva di Parenzo, che è stato avvistato in zona Pungo Eur a Roma, a bordo di un SUV di grossa cilindrata con parrucca, collare e dell'intimo minimal, suppongo sia della sua consorte. Sempre in macchina. Io viaggiavo in macchina con un intimo e una parrucca. No, perché questo mi sembra poco credibile. Il racconto della transessuale mi sembra credibile. Questo sì, no. Perché no? Vabbè, Francesco, allora Giuseppe, sono arrivate diverse segnalazioni sull'indole passiva del buon Parenzo. Comunque, sì, quello è vero, però adesso La mia tesi era un'altra. Glory Hall e ambiente. Allora, cioè? Vi illustrerò. Allora, Glory Hall, siccome siamo limitati negli spostamenti causa Covid, proporrei la rimozione delle colonnine lungo l'intera rete autostradale italiana per la ricarica delle auto, quindi Tesla, sì, e cose varie, e l'installazione di presidi di Glory Hall, presidi che seguono protocolli di sicurezza ben, insomma, cioè, sperimentati. Tu dici Glory Hall per tutti, perché naturalmente? Sì. Perché non per tutti, ad esclusiva fruizione dei lavoratori dell'ANAS, degli amici camionisti, dei sanitari. Ma chi ci mettiamo lì? Ci mettiamo coloro i quali hanno voglia di farlo, insomma, la coppia che magari risiede nello stesso comune, okay, dove è tale presidio. Cioè tu dici in questo momento per aiutare persone che lavorano, camionisti, certo, dipendenti delle società autostradali o delle strade, certo, statali, certo, eccetera eccetera, anche o comunque al posto di cose che non servono, fanno il culo così. Trasformare alcuni punti in dei muri per i glory hall. Tu Parenzo, sai, esatto, che cos'è un glory hall? Beh, ormai l'ho imparato anch'io, il buco credo della gloria, che... sì, letteralmente credo sia quello, certo, non si sa chi c'è dall'altra parte, una porcheria insomma, una... Giuseppe, ma perché è una porcheria? Una cosa straordinaria, assoluta, direi, perché è una porcheria, una cosa straordinaria, cioè una cosa bellissima, cioè tu metti là l'uccello dentro, l'uccello lo metti dentro, sì, l'uccello dentro, e dall'altra parte è la classica dimostrazione, vabbè, che tu puoi, volete, venire con non... chiunque dall'altra parte, cioè tu puoi ottenere vantaggio, puoi ottenere godimento, chiunque ti succhi l'uccello, chiunque ti succhi l'uccello dall'altra parte, chiunque ti succhi l'uccello dall'altra parte, cioè tu non puoi, anche puoi essere anche un camionista di questi qua enormi, dai, di questi qua, io, perché, capito, se volete farlo fatelo, mica solo per la chiusura, no, di questi, ma è la classica, poi, dimostrazione che tu alla fine riusciresti a eccitarti anche in una situazione del genere, ma anche voi, se te lo succhiasse gottardo, sta roba, anche se te lo succhiasse gottardo, ma non ci penso, dovrebbe essere molto basso, non ci penso minimamente, non è una roba che nemmeno io, la cosa reciproca in alcun modo, va bene, insomma. Francesco, ciao da Lorenzo da Bologna. Lorenzo da Bologna, no Lorenzo da Bologna, vai, mi sentite? Sì, dimmi. Ok, niente, sui migranti e le solite cose che vengono sempre dette, una domanda per Parenzo e Gottardo. Perché? Sì. Perché i migranti, che quelli che arrivano, diciamo così, clandestinamente in Italia, scelgono di pagare 6-7 mila euro ai trafficanti, perché questo costa la traversata. Di, di scappare, anziché fare un visto regolare e prendere un comodo aereo. Non è possibile per molti paesi. Un comodo aereo a 500 euro da Tunisi o da Islamabad. Ma tu sai che in Eritrea è impossibile? Dalla Somalia, come cazzo fai ad arrivare? E dalla Tunisia, diciamo cazzate, dalla Tunisia, dai, visto che il 50% sono tunisini? Ma non, no, c'è la possibilità di arrivare legalmente. Sulla Tunisia si può discutere. Sulla Tunisia, ragazzi, l'80% discutere. Non viene da guerre, dai, forza, tu. Ah, te lo dici, lo dici tu? No, dici lo tu. Dicono le statistiche. E non solo, dalla Nigeria con Boko Haram che uccide i cristiani? Ma nella Nigeria sono 200 milioni di abitanti, Boko Haram. Beh, è una nicchia che sta in un angolo, solo milioni, in una regione, non incide sulla migrazione, infatti, di 200 milioni. Invasione. Ciao, non c'è nessuna invasione. Ma chi c'è? Mauro da Mantova, ma è lui o no? O lui è una controfigura? Non ho capito. È lui o una controfigura? Talmente di coglionito che non risponde. È l'anima di Cicè Walt. Ma è Walt. Cosa? Che cosa? Ma la che dentiera, cosa stai dicendo? Devi rimetterti la dentiera, i denti rimettiti. Collega il cervello meglio. Collega il cervello. Metti i denti prima. Metti la dentiera bene. Metto la puttana di tua madre, metto. No, metto. Mia madre, non ti preoccupare. Mia madre, si sente bene. Mia madre purtroppo non ti può rispondere adesso, altrimenti ti risponderebbe in maniera molto chiara. Cioè, coglione, non sto dicendo con te, sto dicendo con quel maletto schifoso che faccia anche il bullo quando il console, quando fuori la console si va a nascondere sotto la console, quel pagliaccio. Vabbè, Mauro, cosa vuoi la console? Parla in modo arcaico, pure la console. Ma la console della radio che fa anche il furbetto. Mauro, cosa vuoi? Perché hai chiamato? Perché hai chiamato con la dentiera? Ci piccia sotto. Oddio, Mauro, sei invecchiato, sei morto, sei finito ormai. È morto? Purtroppo non è ancora morto. Comincia il bello adesso. Ma quale comincia il bello adesso? Come no? Cosa vuoi, Mauro? Ho appena preso le briciole di un'eredità sostanziosa, sono solo le briciole. Te lo vengo a dire a te. Taci nullità, sei uno zero, sei una merda. Dico, le merda io con un palo con le merda. Ascolta, cosciale. Ma il giorno che c'è la terra, puttana di tua madre, imbecille di un coglione, che non hai coltivato di un cazzo. Non ti si può neanche querelare. Ma vaffanculo. E comunque con l'eredità perdi il reddito di cittadinanza, caro il mio coglione. Adesso ti mando la guardia di finanza. Ti fa un accertamento fiscale, imbecille da Mantova. Idiota! Vai a vedere cosa ti do sui conti, che non ho nessun conto. Idiota! L'eredità, caro mio, passa per l'agenzia delle entrate. La guardia di finanza ti fa un culo così adesso. Parassita totale. ascolta, io voglio parlare con quel Crocialenzo là. Non Gustavo, è vero. Sei un parassita, però io non prendo il reddito di cittadinanza come te. Ma tu vuoi prendere il culo? Zecca! Ma prendere il culo? Ma prima mi fa, poi io vado, io ascolto Chopin. No, tu ascolti i cioppini, quelli secchi. Ah, faceva ridere questa, poveretto da Mantova. Faceva ridere. Ma comunque che bello una che c'hai l'eredità. Adesso sei ti querelo così ti porto via l'eredità. Ma vaffanculo, megatela. C'è la megatta, non conti un cazzo nella vita. Ottimo. Parento, non conti un cazzo. Insieme, sì, dai, io ho già non fatto. Non conti un cazzo, sei una merda. Benissimo. Il creditore privilegiato. Perché... Adesso, ma come? Tu vai a fare i provaccini? Ma vaccini di cosa? Io vado a fare i provaccini, quelli influenzali, quelli cos'è? Per il COVID. I provaccini, con la vita. Provaccini. Ma non si capisce niente senza nulla, lentiere. Nulla. Hai bisogno allora, della lentiera, di un logopedista. Hai bisogno di uno psichiatra. Ascolta, io niente pagati per adesso che li ho. Pagati il logopedista adesso che hai l'eredità, no? Tu ti devi pagare, quello è pompe funebri, perché sei un morto. Certo, guarda, perché io pagherò le tue. Per venire al tuo funerale ti faccio seppellire con il culo in aria in maniera che la gente valera possa incularti da morto. Che non riesci a scopare tua moglie che ci va a far scopare i negri, i benvecchini. fermi tutti ormai è andato, fermi tutti. La Zanzara. Scusa Parenzo, tu hai detto che chi va coi transessuali è malato, no? E quindi un transessuale come si deve sentire? Come una persona schifosa, perché con lui ci vanno solo i malati. Bravo, bravo Parenzo, bravo, sempre coerente, bravo. Sempre coerente e rispettoso degli altri. Sei una merda, Parenzo. E sarò davanti all'eventualità. A. Vai a vivere a Catanzaro. B. Fatti inculare tutti i giorni da Efebal, amico mio. Sono già a pecora. Inculami, turco. Io Andrea, Gian dalla provincia di Milano. Gian, provincia di Milano. Chiamatemi chi dovete mai chiamare dalla regia. Forza, avanti. Gian, provincia di Milano. Dimmi Gian. Pronto, buonasera. Buonasera signor Cruciani, buonasera signor Parenzo. Gradirei che questa conversazione fosse una conversazione non troppo audace. Io sono una trans e sono una trans. Ma che vuol dire non troppo audace? Non ho capito che significa non troppo audace. Dopo parolacce, anche perché non sono. Ma noi parliamo come parliamo. Se tu hai chiamato, sai che cos'è questa trasmissione. Dunque, non voglio parolacce nei miei confronti, questo sia poco. Dipende quello che dici, ma che c'entra parolacce nei tuoi confronti? Ma chi lo dice che parolacce nei tuoi confronti? Allora mi faccia parlare, signor Cruciani. Allora, io volevo soltanto passare il mio messaggio. Io sono un medico. Sto andando a fare la notte in un ospedale di Milano dove praticamente la sanità è a pezzi. Sento dire da tutto il vostro pubblico, da tutto il vostro pubblico che credo che sia molto ignorante, da basso ceto sociale. Ignorante sarai tu. Ignorante sarai tu. Io non sono ignorante. Io non sono ignorante perché ho una laurea, ho studiato, ho un master e stanotte salverò delle vite se ci riesco. Altri moriranno. Va bene, questo va bene. Questo non ti dà il diritto di dare l'ignorante ad altre persone. Come fai? È ignorante perché non conosce la storia dell'Italia, non conosce Modi Mazziniani, non conosce Longobardi, non conosce Gianni. Di che cosa vuoi parlare? Di tutto quello che la vostra gente non conosce. Tu sei transessuale? Tu sei una trans? Sì, sono trans. Ma sono soprattutto un medico, che è diverso. Esatto, va bene, fai il medico, pazienza, va benissimo. Ma che cosa vuoi da noi? Cosa vuoi da noi? Non ho capito. Giù, via, niente, non si sente niente. Richiamiamo domani. Vai, via. You're going through the motions. Allora ragazzi, nei giorni scorsi un tizio che si chiama Amedeo Goria, che molti di voi conoscono, che è un giornalista sportivo, credo che sia in pensione dalla Rai, insomma per tanti anni è stato alla Rai, è andato in televisione a dire alcune cose su una vecchia storia che ha avuto con una nostra conoscenza, una mia amica, una nostra amica, la signora Michela Morellato. Ancora signora Michela Morellato. Storia, che palle però. Aspetta, aspetta, questo ha detto il signor Goria. Risentiamo signor Goria sulla Morellato. Ricordiamo che ci fu praticamente una violenza in quel caso, ci fu anche un risarcimento. Ma insomma, sentiamo. Io la incontrai una sera a Vicenza in compagnia di una coppia di amici, dopo la cena io l'accompagnai a casa, ci scambiamo delle effusioni, belle effusioni insomma, effusioni, e tutto finì lì, ci scambiamo poi dei messaggi molto amichevoli delle, i giorni delle successivi. Delle effusioni contraccambiate. Ma certo, contraccambiate, lei era molto sempre contenta di dire, ma sai, io non voglio parlare neanche tanto, perché ogni parola che dico poi viene, faccio un assist. No, chiedo io una precisazione, lei, no? Insomma, cioè, fui screditato a livello televisivo, insomma, attraverso un programma TV, e contemporaneamente ricevetti la notizia che ero stato denunciato dopo quasi 3 mesi per molestie sessuali. Il discorso del risarcimento risiede in questo: siccome lei comunque minacciava di proseguire comunque in una campagna diffamatoria nei miei confronti, i miei legali Bonzi e Facchino decisero, d'accordo con il legale suo, di arrivare a un accordo, una sorta di patto di non belligeranza, chiamiamolo così, con chiaramente fra le due parti quella che poteva sostenere una sorta di aiuto ero io, e così è stato raggiunto un accordo con tanto di patto di privacy, ma non importa. Allora, in collegamento da Colorado Springs, Michela Morellato, eccoci qui, cara Michela. Ciao. Ciao, ciao, sono felice ogni volta che mi chiami, mi illumino. Comunque mi fa piacere ascoltare, perché mi mancava questo pezzo. E quindi avrei ricevuto un bel regalo, mi ha fatto un bel regalo, giusto? Però scusami Michela, io voglio capire una cosa, voi avevate, quando è successo tutto questo con il signor Goria? In che anno era, te lo ricordi? Sì, te lo ricordi bene. 2005, però volevo dire una cosa prima, volevo dire solo che io non ho mai tirato fuori l'argomento del signor Goria, è stato lui, tramite un altro programma, non mi ricordo se con la Panicucci, sempre la D'Urso, è lui che ha detto che io avrei strumentalizzato la cosa, è lui che ha iniziato a risporcare il motore di ricerca. Quando scrivi Michela Morellato veniva fuori questo brutto articolo, e quindi a me sono girate le palle e ho chiesto semplicemente una domanda: perché mi hai risarcita? Ma nel senso, è lui che ha iniziato. Cioè, tu dici è stato lui a rispolverare di nuovo questa storia che era finita sostanzialmente nel dimenticatoio, eccetera, eccetera. Avevate un accordo per non parlarne, oppure non c'era un accordo? C'è un accordo che non dovevamo più parlarne di questo, e io sono rimasta male di trovare di nuovo 4 settimane fa l'articolo scritto, le terribili accuse di Michela Morellato. Ho scritto che lui diceva che non aveva fatto niente, che era tutto strumentalizzato. Ecco, la cosa che voglio capire, però, scusami, al di là delle vostre, di chi ha iniziato, adesso tu dici, mamma, è stato lui a rispondere alla storia, ragazzi. Ma che cosa è successo concretamente? Perché quello che lui fa capire da quell'intervista alla D'Urso è che sostanzialmente voi vi siete visti, poi lui ti ha accompagnato a casa, vi siete visti con un'altra coppia, ti ha accompagnato a casa, e poi voi avete fatto un po' di petting, diciamo, un po' di, vi siete messi le mani addosso, così racconta lui, ma in modo consenziente. Cioè, è vero o non è vera questa cosa? Lui fa passare questa cosa come se voi, cioè come se tu dopo l'avessi praticamente ricattato e avessi detto una cazzata parlando di violenza sessuale. Certo, io sono addirittura un pochino preoccupata per lui, perché magari, essendo una persona molto anziana, nella sua mente pensa che quello che è successo sia una cosa normale, perché magari ai suoi tempi questa cosa misogena, cioè è normale trattare le donne in un certo modo. Infatti poi si sono visti i risultati con sua figlia, con sua moglie. Vabbè, sono fatti suoi. Ma no, ho capito, ma se tu non spendi tempo a seguire la ragazzina di 18 anni e vai a giocare con tua figlia di 16, magari non succedeva niente. Capisci il discorso? Sì, non ho capito. Allora tu rispondi però su questa cosa qua. Non ci fu nulla di consenziente. Lui che cosa fece concretamente? Io voglio dire solo questo, che io comunque in questo patto c'era scritto che io, oltre a non fare il suo nome, avrei dovuto dimenticare che non dovevo parlare di questa cosa, e ancora oggi vorrei, visto che è stato lui a fare il scivolone, vorrei rispettare questa cosa di non esattamente descrivere i dettagli, anche se comunque Giuseppe... No, ma una volta da noi praticamente l'hai fatto senza citare il suo nome, c'è qualcuno che ti mise le mani dentro... cosa fece? Cioè, perché ci fu violenza sessuale secondo te? Perché qui, sai, bisogna anche... Perché lui parla di cose consensuali, risponde... Io dico solo una cosa, che secondo me il peggio non è solo la violenza, o il peggio è il ricatto, cioè nel senso di mettersi davanti il cazzone e dire: guarda, se tu fai così e così, io ti aiuto, io ti preparo. Comunque basta andare a vedere la cassetta. Cioè, non ho capito, scusami, non ho capito, di metterti di fronte? Allora, se io, è come Giuseppe, se io e te fossimo mai usciti a cena insieme, tu mi dici: guarda, per venire alla Zanzara mi devi un po' succhiare l'uccello. Cioè, per me è un ricatto, per me sei un pezzo di merda, tu queste cose non le hai mai fatte, cioè, lui... con me. No, ma certamente no. Scusami un attimo, dunque tu mi stai dicendo che lui... Scusami, no, questo qua è chiaro. Tu stai dicendo, perché poi l'ha detto anche tua madre, che tu sei uscita con lui e lui a un certo punto ha detto: o facciamo così, o tu mi fai certe cose, oppure io non ti aiuto nel mondo dello spettacolo. Questo è... E questo era nella cassetta del 2005 delle Iene. C'era tutta la descrizione della cosa. Visto che la signora D'Urso vuole fare l'eroina e parlare di lui che è una brava persona, io non ho niente contro di lui, per me è finita qua il discorso, però sono successe delle cose, precisiamo una cosa, mi sono rotta le palle di passare sempre da troia per colpa di questi media, sono sempre io ho scritto il libro del talento per i guai, va bene, ma cosa c'entra? Sono anche una moglie, una mamma, una figlia. È una cosa passata, loro l'hanno tirata fuori di nuovo, mi passano da troia e questo mi dà fastidio, perché da troia... Perché lo sono da troia? Io. Perché da troia? Perché dai, hanno messo tutte le mie foto un po' provocanti. Vabbè, però signora, quelle foto sono sue, signora, mi scusi. È out of context, Parenzo, nel senso, se io prendo la foto di Parenzo, lei dà l'immagine che vuole di se stessa, io ci mancherebbe altro, la mia immagine, e io sono libera, io sono una donna libera che dice quello che pensa e fa quello che vuole, non sono una santa, ma cazzo, con tutte però, Michela, scusami, al tribunale di Vicenza sul profilo penale com'è finita quella storia lì? Ma io ho ritirato tutto perché mi ero accordata. Hai ritirato tutto? Quanto ti ha dato di risarcimento? Hai ritirato tutto? Era così grave che hai ritirato tutto. Quanto ti ha dato di risarcimento? No, ma tu devi capire, non è questo devi il problema. Devi dirmelo, il problema, Alberto, il problema non è questo. Il problema è anche quello. No, tu hai ritirato tutto? Non è mai stato condannato sul piano penale? E tu non vuoi dirmi quanti soldi hai preso? Se tu non sai le motivazioni... No, non so, però sul piano penale, esatto. Goria non è mai stato condannato? Ho capito, perché quando io ho voluto, grazie all'appoggio della trasmissione delle Iene, ho voluto dimostrare come funziona questo gioco. Ma la giustizia ha fatto il suo corso oppure no? Certo. No, ma ti spiego, fammi finire di parlare. Cosa succede? Che a un certo punto mi trovo, e noi, io sono di Vicenza, tu sei di Padova, sai come siamo dalle nostre parti? Sì, okay. Come mi siamo? Trovo una città, siamo molto chiusi, un po' bigottini. No, ti dico io come siamo. Se capita una roba così a mia figlia di 18 anni, io gli faccio un culo così in tribunale a Goria, non ritiro un cazzo, altro che risarcimento. Michela, dimmi una cosa. Allora, io voglio capire una cosa. Prima, non fu una cosa consensuale, tu dici, per rispondere a Goria, non fu una cosa consensuale, giusto? Per quanto mi riguarda, no, non è una cosa consensuale, non mi è piaciuto. Io poi non so lui come l'ha presa, anche perché non fu una cosa, ti ha costretto a fare delle cose che non volevi fare, sì o no? Sì. Ok, cioè ti ha costretto a fare delle cose, cioè, ha tirato fuori qualche cosa dicendo: o mi fai una fellazio, un pompino, oppure non ti faccio lavorare, questo è successo? Praticamente è proprio successo Sì, mi spaventa dire queste cose, perché vedi come sono i suoi amici che lo difendono tutti e mi trattano male. No, non lo stanno difendendo, dimmi, è successo questo o no? Io voglio capire, che cosa è successo. Non si possono rifare delle accuse a caso quando lei ha ritirato la querela. Sì, ma state giù un attimo, voglio capire che cosa è successo. È un linciaggio, diventa, se no, diventa un linciaggio. È successo questo o no? Io sono stata ricattata e sono stata abusata e ricattata a 18 anni e poi sono stata distrutta e sono stata distrutta dai media. Mi hanno massacrato da domenica in a tutte le altre trasmissioni, persino non ho detto tanto. Voleva aiutarmi e poi mi ha anche un'ora dopo mi chiamano e mi dicono: no, non possiamo farti parlare. E io che cazzo devo fare se non posso neanche parlare? Ho ritirato, non ne potevo più, stavo per morire, non mangiavo più. Ciao, ti abbraccio, italiani. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.